L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Luciani, tu non puoi capire, in A4 mi ha appena tamponato un grandissimo, scendo, mi tampona, eravamo in coda e niente di che, però mi tampona, scendo, vado lì pronto a smadonnare come un missile, cazzo, sento che sta ascoltando anche lui la zanzara e dico: cazzo, stai ascoltando la zanzara, ma tu sei un grandissimo. Niente, basta, tutto passato, fa niente, un tamponata in più, un tamponata in meno, frega un cazzo, sto facendo grande bomba, grande. Parenzo, iniziamo in questo modo, va. Lo sai che con questa alcuni... grande scoperta scientifica, immagino, no, che sta rivoluzionando le nostre vite, ma il mondo. Che cazzo ci frega delle scoperte scientifiche a noi? È la notizia clamorosa del giorno. Ma sostanzialmente questo... si prova non solo la teoria della relatività, ha trovato un altro riscontro. Cioè Einstein nel 1915, vabbè, non aveva lavorato in vano. Se ne occuperà Piero Angela, credo sia dai. Giusto, bravo, dedicare se tutta la puntata a questo, con esperti, abolire gli ascoltatori, chiamare scienziati a confrontarsi e a capire. Perché quando si parla di buchi neri, non si parla di buchi neri che c'ha nella testa Mauro da Mantova, hai capito? Si parla di buchi neri, di crash, di nascita del mondo. I buchi neri invece che a te piacciono, non mi far dire a quest'ora quali sono, ma quelli che sono a Mauro da Mantova sono quelli che c'ha in testa, i buchi neri, il bosone unico che ha in testa. Dai, che? Sai chi è stato a scoprire il bosone? Che benedetti! È stato lui! È stata la teoria della relatività! Ebreo Einstein! Beh sì, certo, è stato lui! E quindi ha rovinato il mondo! Ma io veramente qualche volta sono stupito dal modo in cui inizi la trasmissione. Veramente mi stupisco. È positivamente, però mi stupisco. Guadagnato lo stipendio, grazie. Chiudiamo qua. 18:39. Ora mandiamo di nuovo Barisoni. Che bello sarebbe 2 ore di Barisoni. Due ore di riflessione coglioni, sui ragazzi. Mercati, sull'economia, sull'indice Nikkei, ad esempio. L'indice Nikkei. Ma secondo te quante persone sanno cosa che ascoltano? Persone normali, non no? Lo so, non lo so, l'indice Nikkei. Beh, però l'hanno. Però vedi, dai, si è diffusa cultura. E Einaudi diceva: conoscere per deliberare. Senti, non rompere il cazzo, se mi sono rotti i coglioni di queste cose. Froci, hai dato? Sì, giusto. No. Allora, i froci, forza, dai. Sì, no, perché sennò ti annoi, dai. Froci, i froci, no. Che ho fatto i froci oggi? No, aspetta, su. I froci, aspetta. No, ma so già che è così. Gaspari ha voglia, Gaspari ne ha detti di tutti i colori. Non mai introdurre un tema, mai, come dire, divisione. Froci, allora, è piaciuto? No, c'è un'altra cosa allora... prima. Il PD romano vuole denunziare, anzi. PD romano. Sì, il signor PD Di Battista. Cioè, ma ti pare che è più interessante il PD romano? No, della, aspetta! Delle scoperte, aspetta. Delle onde. Vogliono denunciare Di Battista perché ha associato il PD a Buzzi e Carminati. Senti la frase incriminata di Di Battista, qual è? Sempre sul tema dei 150.000 euro, della multa che si dovrebbe dare ai dissenzienti. Senti. Il PD a Roma ha avuto altri due garanti, non Grillo e Casaleggio, Buzzi e Carminati. Questi sono stati i garanti del Partito Democratico. E parliamo di un codice di comportamento che sì, applica una sanzione a chi vuole fare il voltagabbana. Qua, in questo Parlamento, è diventato un po' stribolo di dignità. In questo Parlamento ci sono stati, in questa Camera, forse, ma mi tengo stretto, 100 persone che hanno cambiato casacca. Allora, devo dire la verità, i cambi di casacca a me fanno orrore, mi fanno schifo. Cioè, quelli che cambiano di schieramento, quelli che cambiano partito, cioè, non mi piace questa cosa qua, non mi è mai piaciuta questa cosa qua. Io l'ho detto anche mille volte a Razzi, a Scilipoti, eccetera. Poi ci giochiamo, ci divertiamo, eccetera. Per porre fine a questo, bisogna mettere una multa, bisogna mettere la tagliola della multa da 150.000 euro? Boh, secondo me non è una strada, cioè non è che minacciando, no, ma che scherzo, minacciando i deputati e i senatori, è una questione di come dire, di testa, no? Di cervello. No, no, no, prima dei froci ci sono altri temi. Allora, i magistrati italiani, gruppi di magistrati italiani, vogliono querelare, vogliono portare in tribunale Monsignor Tessarollo. Adesso voi dite, chi è Monsignor Tessarollo? Non è una persona conosciuta, non è una persona che si vede in televisione. È il vescovo di Chioggia, ne abbiamo parlato anche per primi nei giorni scorsi, il quale ha, tra virgolette, assolto il tabaccaio Birolo, quello di quel paese in provincia di Padova, che ha sparato e ucciso un ladro, e per questo è stato condannato a 2 anni e 8 mesi e a oltre 300.000 euro di risarcimento. A mio parere una follia totale. Il signor... come si chiama? Tessarollo. Tessarollo. Tessarollo ha pronunciato queste parole, che sono parole ragionevoli, cioè sono parole normali in un paese civile. Ha detto delle cose che pensano tutti, delle cose anche gli è stato attribuito la, il parroco leghista, il vescovo leghista, non c'entra niente, delle cose normali che tutti pensano. Beh. La reazione immediata, giustamente, io non dico che non sia stata sopra le righe e che abbia fatto bene, però uno dice va bene, è lì la rabbia del momento, la tensione, una cosa e l'altra, distinto, ho fatto questo. Quindi lei sarebbe d'accordo sulla revisione della legge sulla legittima difesa? Sì, quello ormai sarebbe ora. Sarebbe ora di cambiare la legittima difesa, capisci che dice il monsignore, il monsignor Tessarollo. Monsignore dovrebbe badare alle anime. Ma non dire stronzate, ha fatto benissimo a dire questa cosa qua, ha fatto benissimo, benissimo. Non incitare a sparare, alle anime dovrebbe badare un monsignore. Senti, senti, ha detto anche, provocato, se un ladro stava a casa non succedeva niente. Cioè è la stessa cosa che dicono i leghisti, i tuoi amici leghisti, la dice un vescovo, un monsignore. Si è trovato provocato da questa situazione, perché se l'altro stava a casa sua capitava niente, no, perché se no la gente si fa l'idea, cioè capito, se il ladro stava a casa non succedeva niente. Ma senti questa cosa qua sul risarcimento che dice Monsignor Tessarollo, numero uno assoluto, attaccato adesso dai magistrati, dalla casta dei magistrati, per, semplicemente perché ha osato criticare la sentenza di una signora che si chiama non so come, insomma il giudice che è donna, che ha deciso di dare 2 anni e 8 mesi a Birolo. 325.000 euro mi sembra esagerato, ecco, per quello che destabilizza la vita di una famiglia. Cerchiamo di non trasmettere l'idea che rubare si può, tanto dovremmo essere protetti per legge. Allora, ironicamente, ho messo anche, ma insomma è una professione, magari faranno anche un'assicurazione per incidenti sul lavoro. Bellissima questa, faranno anche un'assicurazione per i ladri. Un'assicurazione per i ladri. Continua a criticare Tessarollo, tu. Continua a criticare, no, il vescovo. Dico che si occupasse di più del maligno, delle anime, di far la comunione, ma di predicare il verbo di Gesù Cristo, piuttosto che incitare i suoi fedeli ad usare le armi. Scusa, su, dai. Scusa un attimo, non scusa, mi sembra, per non una mi volta, sembra di dire una cosa per così una volta strana. Che non parliamo di preti pedofili, anzi, no, purtroppo ne hanno beccato uno in una retata in Lombardia, come al solito, non è una sorpresa. Per una volta che non parliamo di preti ladri, come il caso pare di un altro prete che ha... si è inguattato credo 30 milioni di euro, comunque ha contribuito a un giro strano di soldi. Per una volta che non parliamo di un prete, ma di uno che dice delle cose ragionevoli, adesso ti devi ribellare. Ragionevole, ma, per te, ma assolutamente ragionevole. Ah, voglio dire una cosa su Sanremo, parte Garco, tu hai visto qualcosa del signor, sì, Gabriel Garco? Sì, sì, ho Garco. Visto tutto sia ieri che oggi. Allora, ho visto tutto. È la prova provata, ottimo, che gli ascolti, no, mi pare, pare di poter dire una cosa, che tu puoi mettere anche lì uno totalmente incapace, totalmente, che non uno che è un attore ma non sa leggere se non con il gobbo, e legge pure male, perché non era solo lui, no, cioè sì, però tu, diciamo, e non cambia niente la e non, bellezza sì di però per cosa. Dire no, puoi mettere anche uno incapace, uno tra i tanti incapace, totalmente incapace di stare lì, forse la funzione è quella, e gli ascolti sono uguali. Però a me ha dato fastidio questa cosa, comincia a dare fastidio questa cosa dei nastri arcobaleno, devo dirti la verità. Lo sai perché? Perché quelli che si sono indignati, no, tutti quelli che si sono indignati perché la regione Lombardia ha esposto la scritta Family Day sul pirellone, dicevano, quella è una cosa, pure io l'ho fatto, quella è una cosa pubblica, non ci dovete rompere i coglioni con questa posizione contro le unioni omosessuali. La stessa cosa succede a Sanremo, dove evidentemente l'organizzazione del festival consente che qualche cantante porti sul palco una cosa che è chiaramente il simbolo di una legge, perché quella roba lì significa chiaramente sia la legge Cirinnà. Allora io vorrei che qualcuno tra i cantanti abbia il coraggio di portare un bel nastrino con scritto no Cirinnà e vediamo che cosa succede. È l'utilizzazione del servizio pubblico uguale all'utilizzazione del pirellone in Lombardia, uguale, identica. Ma a me che sto in Ohio, cosa cazzo me ne frega delle strade in diretta ogni mezz'ora? Cazzo! La Zanzara. Ragazzi, sono un fotografo e sto lavorando a un pallosissimo concerto di musica classica. Ma io preferisco la Zanzara. Allora, caro Parenzo, ti faccio ascoltare una cosa che è successa ieri in una radio molto importante, in una radio nazionale, la prima radio italiana, RTL, di mattina. Ha sollevato qualche polemica perché una delle conduttrici di un programma, che si chiama La Famiglia Giù a Nord, ha pronunciato una parola a proposito delle foibe. Ha detto, ma che cos'è, una marca di pentole? Almeno così è uscito all'inizio, no? E poi un'altra ha aggiunto, un'altra conduttrice, ha aggiunto altre parole sulle foibe. Figurati, è successo un mezzo casino, addirittura qualcuno ha cercato di promuovere una un boicottaggio di RTL, perché chiaramente ieri era la giornata della memoria, la giornata di ricordo anche delle foibe. Sì, no, certo, giusto. Anche e dunque uno non è che può dire, no, è una marca di pentole. Comunque sentiamo quello che è accaduto ieri intorno alle 9.14 su RTL. La voce che sentirete all'inizio è quella di un mio amico, di un mio collega che conosco benissimo, che si chiama Proce, Fernando Proce, il quale da questa storia, devo dire, ne esce abbastanza bene. Senti, senti. Allora, siamo lunedì, sì. Siamo martedì, sì. Dopo la prima giornata di Sanremo, in una settimana di tante ricorrenze, San Valentino, oggi tra l'altro una giornata del ricordo delle foibe. Carlo, vuoi fare un ricordo? Se non sai di cosa parlare, di passo. Allora, io ho visto anche il dopo festival ieri sera, cioè no, non mi sono fermato. È una cosa solo. Seria, dobbiamo ricordare. Sai cosa sono? Giornalista è la sai cosa sono le foibe, a cosa si riferiscono? È una marca di cucina, no? Non scherzate su queste cose, hanno trucidato degli italiani, oggi è il giorno del ricordo, ma perché lo rimanete lo a so, casa, cioè, dei giorni? Lo sai che Silvia, non lo so. Perdonali, Silvia, no, perdonali. Ma certo, no, mi pare in via Rasella. Lascia stare lei a Roma. No, te lo dico io, in erano via Rasella, gli ex Roma. Partigiani, cioè i partigiani dell'ex Jugoslavia, mischiati, via... dice la storia, con altri italiani, insomma, si è fatto un altro schifo, sì, dell'umanità. Ma parliamo di canzoni! Dai! Devo dire che l'uscita è stata meravigliosa. Dopo quello che è accaduto, ma parliamo di canzoni! Per uscire dall'imbarazzo che era diventato, no? Era diventato imperante. Allora, è tutto sgrammaticato. No, lascia perdere. No, allora, ma dico, va la bene. Voce che avete sentito era la prima della signorina Jennifer Pressman, introdotta da Proce come Jennifer... una giornalista. Pressman, beh, tu non sei un cazzo, che ti devo dire tutto io. Scusami, oh, scusa. Allora, la quale... Se non so Jennifer, chiedo scusa. Pressman, dai, su, Pressman. Non fare il coglione. Scusa. La quale che ha detto... c'è il bosone e c'è le onde, voglio dire, che rivoluzione... Jennifer, va bene, chiedo scusa, non so, devi, cazzo, devi pronunciare bene Pressman. Pressman, va bene, Pressman. Va bene, chiedo scusa, cioè, all'amica Pressman, Jennifer Pressman, Pressman, mentre è una woman, mentre chiedo è woman. Scusa, chiedo scusa se non lo so, sono ignorante io, per carità di Dio, mamma mia, oh. Allora, la quale, gente strana, la quale gente, introdotta come giornalista, dice: per me le foibe sono una marca di cucine, non di pentole. Ma adesso io non mi va bene anche questo, non lo so. Poi è intervenuta un'altra voce, come avete sentito, credo fosse la signora Silvia Annichiarico, se ma non sbaglio. Ma benissimo, Annichiarico, la quale sarà sorella dell'Annichiarico dell'attore, immagino. Non lo so. Bravissimo, può essere, non lo so. Che dice, mi pare, che mi pare figlia di Walter Chiari sarà. Allora, mi pare in via Rasella a Roma. Via Rasella a Roma, vabbè, le foibe. È poco male, insomma. Non ma è so, questo... poco male. Io mi metto a ridere, qualcuno si è incazzato, perché noi diciamo, anche noi diciamo un sacco di cazzate, no? Per carità, cioè, capita di fare degli errori, per carità. Certo, dire in due botte, in 10 secondi, il giorno delle foibe, certo, che è una marca di cucina, e poi via Rasella a Roma, che non c'entra una stramazza. Molto buono, molto ci buono. Vuole anche, no, dell'ingegno. Vabbè, ragazzi, succede però, niente di grave. Quelli di destra che si sono incazzati, i sit-in sotto radio, sotto RTL, insomma, ma no, i sit-in veramente. Non rompete i coglioni, andate, pensate a lavorare, non rompete il cazzo, dai. Sì, qualcuno ha pensato di fare dei sit-in, dei manifesti, delle cose. Nicola da Bologna, vai, iniziamo, 800 24 00 24. Iniziamo, dai. Mamma mia, iniziamo. No, mettetevi pronto, il casco, pronto. Cazzo. Dimmi, pronto, dimmi. Ciao Cruciani, ciao. Sì, no. casco pronto, avanti. Vai, vai. Mi senti? Sì, senti? Mi sento, pronto, ti sento. Ciao, ti sento forte e chiaro. Come vedi, mi riaggancio un attimo solo a questo discorso che hai fatto te. Tu ridi della questione delle foibe e dell'ignoranza della gente, perché sono veramente dei grossi ignoranti, ma... se tu avessi riso per ciò che riguarda un campo di concentramento tedesco, beh, lì probabilmente avresti avuto denunce, ha ragione, gente, ha ragione. No, che sollevazioni degli scudi generali. No, ma io non sto, io non sto dicendo, io non sto, adesso non vorrei aprire un dibattito su questa cosa delle foibe. Ma ha ragione, nel merito ha ragione. Per carità, è chiaro che per qualcuno può essere sgradevole, però adesso può succedere in onda di dire una cazzata, cioè, noi che siamo in diretta lo sappiamo. Quello ha detto, ascolta, Cruciani, su queste poi si sono scusati, punto e basta. La gente deve pensare ad altro nella vita, non rompere i coglioni, a fare i sit-in, a promuovere la cosa, boicotta, no, su dai, su. Sono, posso essere anche d'accordo, che boicotti, con te, però, dai, boicotti. Però ricordati che se tu avessi fatto una cosa, una battutaccia di questo tipo sugli ebrei, no, a me mi avrebbero massacrato. No, ma quello è sicuro. No, ma quello è sicuro. Tu stato tacciato di antisemitismo. No, ma quello avviene costantemente, battute su quello. Noi viviamo in quest'Italia quando veramente no, ragazzi, allora, molti mi stanno dicendo, se appunto la cosa fosse stata rivolta su Auschwitz, eccetera, se qualcuno avesse detto, infatti succede. Sì, ho capito. Ma se no, qualcuno alla radio avesse detto, tutti saresti rivoltato come un serpente, molto ho di detto più. Detto che infatti succede. Sì, certo che succede. Vabbè, allora come Nicola, succede? Che vuoi dire? Al di là di questo, che vuoi dire? Beh, guarda, è un tema, quello sul quale mi volevo riferire io, che avevo appena sentito e dibattuto da voi, è la questione della magistratura. Il caso di Padova è un caso emblematico. Sappiamo perfettamente che la magistratura è una magistratura di sinistra e quindi io non lo so se è di sinistra. Che ne sai che questo giudice che ha condannato... Sì, lo sai perfettamente. La magistratura è così come la scuola, è l'istituzione della scuola, vabbè, allora... è un'istituzione di sinistra. E allora tu sai perfettamente che se noi abbiamo una imposizione di questo tipo e una direttiva di questo tipo, è logico che poi maturiamo anche delle sentenze. Vabbè, come Nicola, quella di Padova. Secondo ma te, per secondo... parte questo, questo che, quello che ti volevo dire io è questo, che molti ascoltatori forse non lo sanno. Voi dai, avete parlato di legittima difesa, eccetera, eccesso di legittima difesa. Sappiate una cosa, che è una cosa fondamentale per chi ha un'arma in casa. Io, a te è successo qualcosa? Certo, mi è successo qualcosa. Dimmi che cosa, dai, dimmi che cosa. È successo che mi sono trovato anch'io con un ladro in casa. E che cosa hai fatto? Essendo un possessore di un'arma, prima di tutto gli ho intimato appunto di andarsene via, perché sennò l'avrei sparato. Questo ha continuato a venire avanti, ho sparato alle gambe e l'ho preso ad un ginocchio. Cioè tu hai sparato alle gambe e l'hai preso al ginocchio e poi? Certo, e quindi il ladro è stramazzato per terra e ho chiamato la polizia, ma il secondo colpo l'ho rivolto verso l'alto. Vabbè, ma tu sei una persona che è riuscita a essere fredda in quel momento. Non è il fatto del freddo, stammi a ascoltare questo, Cruciani, che è importante, perché la gente... Sì, però amico mio, non possiamo fare un trattato qui, sono 18.55 e devo dare la linea al giornale radio, perché come sai... Se mi lasci parlare te lo dico, di quello che ti stavo dicendo. Parla durante la pubblicità, va che è meglio. Il primo colpo va tirato sul ladro, il secondo lo devi tirare in alto, perché... perché tu ho capito, ma tu sarai, ma bisogna essere freddi quando sei lì, puoi sparare tranquillamente anche addosso, secondo me, cioè non ho detto che devi sparare per forza addosso, gente, ma se uno lo fa non gli dovete rompere i coglioni, chiaro? Tu hai avuto la freddezza di sparare alle gambe e poi in aria e dunque ti sei salvato, ma se uno spara addosso male non fa. Sono qui con la mia ragazza che ti deve dire una cosa, Giuseppe. Vai, diglielo. Sei veramente un figo. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La Zanzara. Hey Joe, get up and go. Wouldn't like to tell you twice. Hey Mac, get off my back. Didn't ask your advice. There's too much heat out in the street. Telling us to move along. Parliamo un po' di Cruciani invece, è un essere ripugnante, dice delle cose veramente schifose, ogni tanto ha qualche sprazzo di originalità, così di pensiero un pochino controcorrente, ma per lo più dice veramente delle schifezze e in più è profondamente maschilista, fa veramente schifo. Vabbè ragazzi, questa è una simpatica signora, credo la madre di un ascoltatore che mi ha scritto: mia madre ti vuole mandare un messaggio. Manda questo messaggio. Un essere schifoso, maschilista. Tu lo sai che io sono esattamente l'opposto del maschilismo? Cioè se c'è qualcuno proprio che è totalmente... Non lo so, questo non no, saprei dire. No, ma tipo te lo posso dire io, te lo posso dire. Beh, sì. Allora, vi faccio riascoltare... Per gli amanti, per i cultori della materia, come si dice in gergo, caro Parenzo, lo sfogo della signorina Elfe Ball ieri sera qui alla Zanzara. Memorabile. Memorabile sfogo, sì, tu lo sottovaluti, ma la signora Elfe Ball, ricordo per chi non lo sapesse, trans italo-turca nonché prostituta, una donna di spettacolo, diciamo, perché viene invitata in diverse trasmissioni a parlare della prostituzione. Stava per essere ingaggiata all'Isola dei Famosi. Ha fatto un'intervista qui alla Zanzara in cui ha detto che avrebbe portato oltre 100 preservativi, che voleva andare sull'isola a scopare, eccetera, eccetera. È stata bocciata, poi cassata. Però, secondo lei, non per questa intervista alla Zanzara, ma perché c'è stato il grande complotto della coppia Pezzopane Coccia. Di chi stiamo parlando? Della senatrice Pezzopane e del suo fidanzato, che lei chiama Toy Boy, che lei chiama Gigolò, Simone Coccia, con l'aiuta. Ci uscite fuori che la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, e il suo Gigolò, o piuttosto Toy Boy, diciamo così, Simone Ciocca... Sì, Coccia, sì, Coccia. Coccia, scusa, Coccia. Sì. E praticamente lei ha pagato, quanto ho capito, o anche che no, se non attenzione, ha pagato, attenzione. Ha chiesto qualche, ha fatto qualche favore, qualche gioco, non lo so sinceramente cosa abbia fatto. Per fare cosa? Che grande intrigo qua. Cambiare il mio posto con questo ragazzo. Poi annuncia, andrò a fare una manifestazione, pure lei le manifestazioni, basta con le mobilitazioni, le manifestazioni, vestita da preservativo. Ma che vuoi fare, una manifestazione davanti a Magnolia tu? Ah, mi voglio. Che è la casa che produce. Ho già trovato il vestito fatto come un preservativo enorme. Anche. Vado davanti, Tito Speri, il 7 di marzo, quando comincerà questa farabutto programma. Io sto facendo di tutto, caro Davide, per non parlare di omosessuali, per non parlare della legge Cirinna, eccetera, eccetera. Sto pur avendo fatto sentire un transessuale, sto facendo di tutto, però alla fine andiamo a parare lì. Perché questo ci offre, come dire, no? l'attualità, questo ci offre l'attualità. In realtà, allora, cosa accade in Parlamento? La notizia del giorno, come sai, è un'altra, ma non voglio bosone, insistere. Oddio, questo bosone, questo buchi neri, basta, non ne posso più. Non voglio insistere. I buchi neri, dai, su. Non voglio insistere. Ma chi se ne frega dei buchi neri? Ma della... chi se ne frega? Ma chi se ne frega delle onde elettromagnetiche? Voglio dire Einstein, dai, voglio dire Einstein nel 1915, voglio allora, dire lui. Gasparri contro lo giudice, non è una novità. Il senatore Lo Giudice, per chi non lo sapesse, è un senatore del Partito Democratico che insieme al suo compagno è andato in Canada, ha fatto con l'utero in affitto un bambino che poi ha portato in Italia spendendo credo circa 100.000 euro, così ha detto alle Iene recentemente. Gasparri dice che praticamente ha comprato un bambino, da noi ha detto pure che bisognerebbe toglierlo questo bambino, cioè questo bambino bisogna toglierlo allo giudice. Pazzesco. E metterlo in adozione. Gasparri contro Lo Giudice. Ho letto oggi un articolo di Belpietro che trascrive una conversazione televisiva tra lui e Lo Giudice che non ha risposto al costo dell'acquisto del famoso bambino comprato. Senatore Gasparri, stiamo parlando degli emendamenti, certo, all'articolo 1, quindi si attenga all'argomento e non al giornale o a trasmissioni televisive. Allora, la legge per comprare, la legge per la legge per comprare i bambini non si può fare, perché e lascia stare i bambini, sono d'accordo. Senatore Gasparri. Non sono io, non sono senatore io. Senatore Gasparri, la prego di ritornare sull'emendamento. Quindi i bambini non si comprano, i bambini non si comprano, e perché sennò poi si possono anche vendere. E chi li ha comprati dovrebbe dirci quanto li ha pagati. Vabbè, questo è Gasparri, eh. Poi Giovanardi, ora... si può dire tutto, ma non che uno che prende un bambino poi lo può anche vendere, perché Giovanardi, aspetta un attimo questo nome, no dai, basta, vado a vedere Giovanardi su Google cosa vuol, no, dire Giovanardi è un senatore, ma è una parola, no, è una... ho visto, dai, che aiutami un attimo, è un aggettivo, no, Giova è un sostantivo, è un il verbo, il soprannome di Floris, cos'è, no? Giovanardi, Giova. Se io metto Giovanardi Nardi su Google cosa salta fuori? Vai insieme Giova, che è il diminutivo di Giovanni Floris, quello, il modo in cui lo chiama Crozza, no? Giova, e Nardi. Giova più Ma Nardi. Ma se io metto su Google Giovanardi, cosa salta ti fuori? Ti esce un sacco di roba. Ti esce fuori soprattutto perché il fatto che Giovanardi oggi si è incazzato perché... Ah, quindi una persona? Una persona, dai, su, non fare il coglione. Perché al Senato oggi c'erano due uomini che si baciavano, pare, sulle tribune. Bellissimo, e lui molto si è bene. Beh, stupendo. Lui si è irritato. Di che cosa? Si è irritato, senti, lo ha detto. Dice che è un'azione di disturbo. È una provocazione. Una roba incredibile questa. Devo dire abbastanza incredibile. Giovanardi, io ammiro le tue battaglie alcune volte. Ah sì? No, ammiro come dire, la la determinazione, la determinazione. Ammiro le battaglie, no, di la determinazione. Sei il primo persona che lo dice in Italia. Mamma mia, ma non hai capito il senso. Sono contro quello che dice Giovanardi, mi sembra chiaro. Però alle palle, secondo me, per portare avanti oggi, quando a Sanremo sono tutti con questo cazzo di cosa arcobaleno, beh, amico mio, uno che dice no almeno ci vuole, altrimenti che cazzo di mondo è? Mentre sono tutti non d'accordo, non ti preoccupare che lo trovi sempre uno che dice no, allora, non ti preoccupare, forza, che lo trovi sempre. Se loro sono d'accordo che due uomini vengono in tribuna a baciarsi per provocare il Senato, io dico che non è decoroso, è accaduto, e ringrazio il commesso che è intervenuto. Lo ringrazio. Credo che gli italiani che adesso parliamo degli emendamenti. Che cosa voglio dire? Vabbè, ma ragazzi, ma chi se ne frega che si baciavano due in tribuna? Giovanardi, dai, su, si baciano in tribuna, va bene, vengono lì a romperti le balle. Ma che problema c'è? Dai, sei in battaglia, combatti, no? Ragazzi, però c'è una notizia che vi voglio dare, su cui mi voglio veramente incazzare, che è questa. Il signor presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il signor presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che fino a prova contraria rappresenta uno stato straniero a casa mia, no? Beh, uno sì, stato, cioè, straniero, che è il Vaticano. Sì. A casa mia trattasi di uno stato straniero, il questo Vaticano. Questo tecnicamente. Il quale oggi, come se nulla fosse, credo dalla sua Genova, come sai anche arcivescovo di Genova, nonché presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, ripeto, rappresentante di uno stato straniero, ha detto che sulla legge Cirinà bisogna votare a voto segreto. Ci vuole il voto segreto. Tu ti rendi conto? No? Veramente. Cioè, mi hanno veramente rotto i coglioni questi qua. Ci auguriamo che il dibattito in Parlamento e nelle varie sedi istituzionali sia ampiamente democratico, che tutti possano esprimersi, che le loro obiezioni possano essere considerate, che la libertà di coscienza su temi fondamentali per la vita della società, vabbè, tutta una palla pazzesca, ma anche promossa con una votazione a scrutinio segreto. Ora io dico una cosa. Come vota il Parlamento italiano lo decide il Parlamento italiano. Bagnasco non deve rompere il cazzo. Non deve rompere il cazzo. cazzo. Glielo dico così, in maniera volgare. Questo penso non che rompesse capito, il cazzo. Diciamo. No, ma è chiaro. Lo dico anche, lo dico molto chiaramente. Non rompessero il cazzo su come vota il Parlamento italiano. Noi ci impicciamo di come votano il Papa. Di come votano la minchia di Papa. Cioè, il Papa viene votato da alcuni signori nel conclave che sono in attesa dello Spirito Santo. Capito? Dello Spirito. Ci impicciamo noi? Ci impicciamo noi? Andiamo a questionare delle... Io voglio invece l'elezione a scrutinio. No, a scrutinio segreto, voglio l'elezione palese. In piazza, Piazza San Pietro dei Cardinali. No, in genere non ci permettiamo di dirlo. Ma tu pensa, se un politico italiano, se un politico italiano dice una cosa del genere. Io vorrei che il Papa fosse eletto in Vaticano con tutti i cardinali lì che votano con la paletta alzata, tipo i, no, i reality, tipo la televisione. Ma ti rendi conto, no, che Bagnasco ci deve rompere i coglioni su come si vota una legge in Italia? E questa è la stortura. Nasce tutto da qua, da questa stortura clamorosa, dall'esistenza del Vaticano, dei rapporti nostri col Vaticano. Nasce tutto da là. Ah, non ne posso più. Chi c'è qua? Antonello dalla provincia di Napoli, dai. Antonello, dai, forza. Pronto. Aniello, scusa. Pronto. Dimmi, Aniello, dimmi. Aniello da Scafagnano. Aniello da Scafagnano. Perché vabbè, chiamano tutti questi qua dalla provincia di Napoli? Stupenda sta cosa. Aniello, vai. Buonasera. Buonasera, Aniello. Buonasera. Allora, io niente, siccome questi giorni, anche ieri sera, che sentivo, io ho chiamato effettivamente ieri sera, poi mi hanno richiamato oggi, non lo so. Vabbè, ma questo non ce ne frega niente, ti hanno richiamato oggi perché eri rimasto, diciamo, fuori sacco ieri. Appeso ieri. Insomma, no, io volevo dire su questa questione dei diversi sessuali, diversamente sessuali, sì. Che succede? Che sente proprio nella televisione, pure nelle radie. Nelle radie. Che tutti gli schifano. Ma secondo me non è una cosa tanto da schifare. No. Ma questo è buono, dice non è una cosa da schifare. Sì, no, per carità. In che senso non è da schifare, Aniel? Ma io posso dire personalmente, per chi c'ho esperienza, no? Sì, di cosa? Che mia moglie. Sì, tua moglie. Ci piace o tarallo, per carità, io non dico di no. Cos'è però tante volte cos'è il tarallo? Tarallo, il pisello, insomma. Ci piacciono pure i femmini. Ci piacciono i femmini, va, Aniello, sì. Cioè adesso è normale che uno chiami una radio per parlare delle proprie questioni intime. Io ho il sospetto che Aniello stia facendo un po' apposta, però è un mio sospetto, però va bene, Aniello, prosegui tranquillamente. Noi facciamo finta che tu, come dire, stai chiamando in maniera... come dire, che tu sia vero, che sei veramente Aniello e parli veramente così, vai. No, io di Scafagnano chiamo. Di Scafagnano, sì, Scafagnano, che non esiste in realtà, provincia di Napoli, comunque, dai. Aniello. No, di Scafagnano non è provincia di Napoli, provincia di Benevento. Vabbè, è uguale, andiamo a controllare. Scafagnano si chiama, Scafagnano. È tanto uguale. Scafagnano, vabbè. Provincia di Benevento. Benissimo. Con la moglie è tutto a posto, comunque. La moglie gli piace il tarallo, però... Però ci piace pure i film. E lei perché ha scelto questa radio per darci questa notizia fondamentale? No, diciamo, perché voi mi dice, no, che insomma è piacevole. Cioè è piacevole... Voleva condividere con noi questa sua cosa guardare, intima. Dice, è piacevole guardare, no? No, perché mia moglie te non lo sa che sordo. Ogni tanto essendo un po' che una chiave che bisogna dire la verità, però ogni tanto... È bravo questo... Sì. È un bravo attore. Si chiama, sai, si zoccola che stanno in coppo computer e fa venire a casa, spende 300-400 euro. Vabbè. E arriva a casa e trova il seguaglione. Oh, ben di Dio! Ben di Dio, no? Tutto questo ben di Dio a casa, bellissimo. Denunciale, però. Stupendo. E dunque, tu vuoi dire che le lesbiche sono qualcosa di meraviglioso, no? Diciamo che le donne sessuali, sì, sono una bella cosa. Sì, le omosessuali. L'omena effettivamente fanno un po' di schifo, però insomma... Le lesbiche no. È una teoria montaniniana, dico io, è una teoria che possiamo ampiamente condividere. Cioè se tu hai di fronte, grazie Aniello di questa performance, se tu hai di fronte due uomini pelosi, grossi, no? Diceva Montanini, poi rimanderemo in onda il pezzo, magari se ci riusciamo, con la panza grossa, eccetera, che si ingroppano, ti fa schifo. Se vedi due ragazzine, no? No, dell'est, di vent'anni che insomma no, che si accoppiano, beh, Ma è pure che non sono tanti ragazzi, insomma, non è che hanno avuto forza di intanto, pure 30, 20. Sì, anche 30, va bene. Aniello, pensavo fossi scomparso, invece ci sei ancora. Ma come mai Parenzo ha delle occhiaie mostruose? State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Diciamo che le donne sessuali, sì, sono una bella cosa. L'uomo effettivamente fanno un po' di schifo, però insomma... Allora ragazzi, andiamo a Brescia. Roberto, Roberto, vai. Ciao, allora faccio l'esordio, devo dirlo per forza, devo sbagliare. Un baffanculo a Parenzo, a lui e ai suoi amici ladri, punto. Secondo. A lui e ai suoi, scusa, come dice? Ai suoi amici ladri. Ai suoi amici ladri, ai amici ladri, Parenzo. Come si chiama lei? Evidentemente, Roberto. Ah, idiota, ho capito. Io sono Parenzo, salve, buonasera, molto lieto. Lei, signor idiota, il nome suo di battesimo è idiota e il nome di battesimo qual è? Il signor idiota si chiama Roberto. Ah, ecco, Roberto idiota, bene. Da dove chiama Roberto idiota? Da Brescia. Roberto idiota da Brescia, prego, dica, non ho... prego. Roberto idiota, sì, prego. Nessun problema. In diretta Radio 24, 800-24-0024. Cari ascoltatori, c'è Roberto idiota da Brescia. Prego, Roberto. Anzi, scusi, prego, idiota. Mi sembra troppo banale, sì, di augurarsi che ti vengano a trovare a casa, perché rischiano di coinvolgere degli innocenti che saranno, sì, i tuoi mogli e i tuoi figli seriali. Quindi, Roberto idiota non ha il cervello. Come fa a vivere senza il cervello, Roberto idiota? Ma, mi spieghi? Io vi dico lo stesso senza fare il cretino come lo fai tu in radio e fare provocazioni. Quindi lei addirittura non ha il cervello, ma riesce a vivere quasi normalmente, Roberto idiota. Beh, è una testimonanza interessante, sì, la sua, grazie. No, ma interessante. Vabbè, Roberto, però andiamo al solo. Perché pensi che Parenzo sia amico dei ladri? È amico dei ladri perché uno che dice che sparare a un ladro che minaccia la tua famiglia, che entra in casa tua, ha bisogno di attenuanti, secondo me è un emerito imbecille. No, non ho capito, bisogno di attenuanti, non si è capito bene questo passaggio. Allora, prima Parenzo ha detto, tanto per capirci bene, prima Parenzo ha detto che il vescovo che appoggia il tabaccaio deve pensare più alle anime che, sì, a criticare, banale, che a criticare un giudice. Sì, d'accordo. Allora, una sentenza dello Stato italiano, peraltro, sì, essendo ma lui un cardinale, per fortuna, lui un cardinale, quindi pagato da uno Stato estero. Bene. Questo non ci ho pensato. Beh, questo è un aspetto importante. Questo effettivamente non ci ho pensato. Potrebbe scendere dal mio piedistallo il vescovo. Però in realtà io pagato guardo... da uno stato estero che si deve però con una missione particolare, che è quella delle anime, si occupa invece di tutt'altro, cioè di criticare la sentenza di uno stato laico. Beh, amico mio, stai a casa tua, fai le cose in chiesa, la comunione, la messa. Però tralasciamo il fatto che questo qua sia un vescovo. Ha detto delle parole condivisibili. Ha detto delle parole, a mio parere, che rimane sempre perfette. Un dipendente di uno stato estero. Vabbè, Roberto, comunque allora... un dipendente di un altro stato. Bene, ma lo stesso atteggiamento ce l'hai quando abbiamo ricevuto critiche da paesi esteri riguardo al nostro stato. Sì, certo, signore idiota, certo. Vabbè, certo. Roberto, cosa vuoi dire ancora? Allora, io taglio questo idiota perché mi è venuto un po' anche il coglione. No, ma mi dispiace, si chiama, no, prego, Roberto non, idiota da Brescia, prego. Perfetto, ma tu puoi, infatti tu... Sì. Tu fruisci della tua bella radio. Mi pare che stia parlando anche lei, caro Roberto. Sì, io parlo un po' meno di te. No, puoi parlare quanto vuoi, basta che dici delle cose, però, perché no, dico che non sono state fatte le critiche quando sono spesse critiche verso stati stranieri che hanno espresso giudizi sulla nostra sull'Europa, soprattutto, magari quando l'Europa. Uno. Vabbè, sono due cose diverse. Le sentenze scandalose italiane si possono scrivere dei libri, che i magistrati non abbiano una responsabilità civile e non paghino e giochino con la vita del prossimo, se vuoi gli esempi ce ne sono, credo, non ho bisogno di dirlo a te, Cruciani. Va bene, Roberto, grazie. Enrico da Roma, vai. Enrico, vai. No, ecco, a un certo punto uno interrompe e passa un altro ascoltatore. È normalissima questa cosa qua, eh. Trattasi della conduzione di cui sono il padrone insieme al signore che è a Roma. Enrico da Roma, vai. Ciao, Cruciani. Vai. Senti, volevo dire che io e tutti gli amici miei che votiamo 5 Stelle siamo tutti incazzati con i 5 Stelle, perché 150.000 di multa non va bene, perché è troppo poco, perché sti stronzi se stanno a mangiare tutto, è capace pure che 150.000 se li comprano a questi. Quindi la non ho capito bene, la proposta qual è? La tua proposta, proposta è che per quelli che tradiscono, quelli che dissentono, quelli che dicono 150... no, Grillo ha torto. 150.000 è troppo poco, devono mettere minimo 300.000, perché se sti zozzi se stanno a mangiare tutto, il ma problema chi poi si loro. Sta mangiando tutto? Si stanno, chi? Ma quelli che 30 anni ci hanno portato a sti livelli, capito? E il problema sono i 5 Stelle, la multa è troppo poco, 150.000, è vero, te lo dico io, guarda. Cioè è troppo poco la multa, 150.000? È troppo poco e non la penso così, siamo tanti a pensarla così. No, ma questo è Roma. Sicuro, l'ho poi detto... Poi il PD di Roma, no, PD sì, di Roma, quale PD di Roma? Che ce ne stanno 20 anime del PD a Roma, Bettini... No, ma io parlavo di un tizio, parlavo di un tizio del PD che vuole querelare Di Battista per la frase che ha detto il PD in mano a Buzzi e Carminati, no? A Di Battista, vuol dire quella Di Battista, ma pensate, questi non c'hanno un cazzo da fare, Cruciani. Questo è sicuro. Luciano dalla provincia di Salerno. Vai, Luciano, dimmi. Salve, buonasera. No, sono d'accordo la sentenza che hanno dato al Gioia e Lire, perché secondo me deve essere il gesto di Gioia e Lire. Perché giustamente lui, cioè, voglio dire io, mica è stato il rapinatore che è andato là, il rapinatore faceva prima del gioielliere, tutto andava bene, quello che voglio dire io. No, Luciano, guarda, io sono d'accordo con te al 100%. Il gioielliere, al limite, è lui che deve avere i soldi per tutti i casini che ha avuto. Bravo, cioè, gli entrano dentro casa, gli sfondano. No, gli sfondano momento, però la questione va bene, dai, d'accordo. Ragazzi, da un punto di vista emotivo, puoi avere anche ragione. Da un punto di vista, però, e mi dispiace doverlo ricordare, della legge. Ti puoi difendere nella tua casa, nel tuo negozio, nel tuo intimo, nessuno lo mette in discussione. Se però esci dal tuo negozio e insegui una persona che scappa, non hai inseguito, ha sparato dentro il negozio, dentro il negozio. Comunque, o anche dentro un negozio, c'è comunque, e una persona muore e o rimane ferita, anche gravemente, anche a vita. Viene aperto un procedimento e un giudice accerterà. Sì, sì, certo, quello è chiaro. Ha sparato dentro il negozio, dentro. Solo che quello forse, secondo il giudice, secondo le perizie, stava uscendo, era lì sull'uscio, capito? Ma chi se ne frega? Se stai dentro, subisci tutte le conseguenze possibili e immaginabili. Allora, Caterina dalla provincia di Monza, dai Caterina. Sono leggermente incavolata. Dimmi ma Caterina. Ma proprio tanto, cerco di stare calma. Sì, dimmi, che è successo? Allora, ti sei reso conto di quello che hai detto? Beh, sì, ricordamelo, che cosa. Papa, prima di dire, quando sì. Tu hai detto devono star zitte, poi tu hai detto sta M puntini. No, questa minchia di Papa, di sì, Papa. È vero. Sì, è vero, hai ragione, era un'espressione che, okay, che forse non ci stava. Posso chiederti di chiedere scusa per piacere? No, ma che scusa, non si chiede mai scusa. No, scusa le nella... imparare a chiedere, no, perché quando uno sbaglia. Caterina, allora, non c'è niente allora, da... Allora, puoi dire anche sta mi di... E parli, non so, no, di qualsiasi mullah che c'è arabo, ma, voglio assolutamente, vedere se hai il coraggio di farlo. Ma figuriamoci se purtroppo non ho avuto... lo fa, dai, questo fallo, è il dramma. Lo fa, fallo, purtroppo vabbè, lo fa. Non è successo, niente fino allora, adesso. Allora, poi dio al tuo amichetto vicino... No, aspetta, Milano, restiamo, Caterina, restiamo su questa cosa qua del Papa. Allora, prima, quando parlavo di Bagnasco... dicendo che ero incazzato per il fatto che Bagnasco vuole il voto segreto alla Camera e non si deve permettere, essendo il rappresentante di uno Stato straniero. Ma perché lui non può parlare, non l'ho capito. Non può parlare, ma non deve rompere i coglioni, non ci deve dire. Ma di vaccata anche te, è un ma che c'entra? Deve star zitto, vai. Ma chi ha detto? Io faccio lo speaker radiofonico, faccio il conduttore. Non può parlare un cardinale. Ma non ho detto che non può pensa, parlare, no. Lui può dire come la pensa, io posso criticarlo e posso dire che queste parole qui sono vergognose, perché sono un'intromissione negli affari di un altro Stato. Quello che la pensa, siamo in no, siamo in qui sta parlando di... Se io dico che secondo me essere gay è sbagliato, cacchio, lo posso dire, Caterina, non mi devo sentire... Caterina, scusa un attimo, è una cosa diversa, perché Bagnasco non ha parlato di omosessuali, eccetera, cosa che ovviamente può fare, ha parlato del modo in cui si vota una legge nel Parlamento italiano. No, perché amica mia. Perché sa benissimo che c'è tanta gente che davanti... Ma che gliene frega a Bagnasco se uno vota la legge? Ma che non gliene può fregare? Comunque ciò non toglie che tu devi chiedere scusa. No, io non devo chiedere scusa. Io non chiedo mai scusa, perché chiedere scusa è una cosa da per quello che uno ha detto, da imbecilli. È da persone poco intelligenti, no, non riconoscere, Caterina, il proprio errore. Io ho usato un'espressione nella concitazione delle cose che ho detto, nella concitazione del discorso. No, ma volevo dire, per eleggere questa minchia di Papa non era una cosa negativa nei confronti del Papa. Può sembrare paradossale, ma l'avrei detto anche di un politico, questa minchia di Presidente della Repubblica. Per me è uguale, la figura del politico e quella di un Papa è esattamente la stessa. Anzi, devo dirti la verità, almeno è eletto da qualcuno, almeno è eletto dal popolo politico, in teoria. In teoria, tutti quelli che invece ci credono. E comunque, ma chi puoi se ne dire frega? Al tuo amico lì vicino. Che devo dire? Eccoci. Ma ascolta una cosa, ma tu sei ebreo e io ho tanto rispetto per gli ebrei, ma scusa, come si chiamano, rabbini? Pedofili non ci sono nella vostra religione, che non si parla mai? Non c'è nessun, fino ad oggi non c'è stato in Italia nessun caso di rabbino. Dite voi pedofilo. Che in percentuale. No, questo però se vuoi, però le posso assicurare che se solo unicamente della religione cattolica, no, male, non ci parlate. Lei mi ha chiesto di più. Rabbini, diciamo, pedofili niente. Per ora non se ne segnalano in Italia. Però ti sto dicendo, sì, strano. In Italia no, ma in tutto il mondo non ce ne sono. Verificheremo, ciao Caterina, verificheremo, ciao. Scusa. Ma che chiedo scusa, assolutamente. Allora, caro Parenzo, con noi questa sera Enrico Montesano, buonasera. Buonasera a tutti voi, come state? Eccoci, ma perché non te candidi tu a Roma, Enrico? Perché adesso, guarda, visto che loro del centrodestra stanno a offrire a tutti, dico, se mi offrite pure a me può essere che vi dico di sì. Che a sinistra sono già tutti occupati, ce n'hanno 3-4, poi pure quelli dei 5 Stelle sono tutti schizzinnosi, devono fare una cosa, dice, no, non vogliamo un volto noto, insomma, un bollo vince, via. Quelli della sinistra ci snobbano perché devono fare cose tutte loro. Allora il centrodestra arriva dalla chiesa, che ne so, e adesso chi? A Pivetti. Allora pure io posso essere un io. Beh, però Parenzo, non è una cattiva idea questa, no, qua. Ottimo, allora, ottimo. Il marchese del Grillo, sindaco di Roma, meraviglioso. Perché, ma Rugantino, il Conte Tacchia, ma io vinco. Stupendo. Comunque, la realtà è che Montesano ha scritto pure un libro, Parenzo, che si chiama Io Confesso. Confesso. Ho scritto un bel libro, ragazzi. Io ho scritto, che è la storia, la storia che funziona, la storia della sua vita. In pratica, adesso però, da sindaco di Roma, se tu fossi sindaco di Roma, la prima cosa che faresti qual è? Chiudere i campi Rom? La prima cosa? Io no, io manderei a casa gli inamovibili. Cioè, tutti i dirigenti, questi qua. Ma sono loro che rubano da 50 anni. Cioè, il è difficile. Ha le sue colpe. È difficile mandarli a casa, però. Hai capito? Allora che famo? Ma hai visto quelli che stanno in affitto a pochi euro al centro? Hai capito? Io. Quanto paghi una tu? Casa, una casa di lusso sopra un mare di macchine. Ma perché? Dice, perché lei ha due scale e sfiga. C'è una scala di servizio piena zozza, polverosa, che nessuno addobra perché ha paura. Chiudi la porta blindata. Però ci fanno pagare ICI, IMU. Poi ci sono quelli nati con la camicia che c'hanno, mio padre diceva, il fiore al culo. E scusate se sono... C'hanno, scusi, professore. No, bene, devi essere così. Devi essere così. Ma nella trasmissione che deve pungere come la vostra. Assolutamente. Allora dico... C'hanno il fiore dove? Al culo. E pagano 22 centesimi e vedono il Colosseo. Ma dove che c'è stato? Vabbè, maestro, tu non hai guadagnato nella tua vita. Mica sei un poveraccio. Ma io i soldi non so come spenderli, quindi è giusto che me li rubino e lo Stato me li prenda. Però mi dia in cambio dei servizi. Però, ma in realtà Montesano ha fatto un sacco di figli, Parenzo, cioè, e si è sposato più volte. Per cui, che errore che ho fatto. Mamma, ma come cazzo hai fatto? Sei figli. Ho fatto studiare. Sei figli. Lo Stato non mi ha aiutato mai, me levavano 50 euro l'anno, potevo detrarre. Adesso sono tutti... fanno lo sport, sono dei bravi ragazzi, parlano due lingue, hanno studiato e andranno all'estero a lavorare. E quante mogli? Quante mogli? Una moglie sola quando ero ragazzo, una compagna e poi in età matura ho sposato civilmente Teresa. Mamma mia ragazzi, però che casino. Sei figli? Se tu rimani orfano di madre 8 anni e a 9-10 ti mettono in collegio fino a 17. A proposito, ma lo vedresti un figlio in mezzo a due omosessuali? Io mi auguro che lui sia un uomo maschio, come dice Woody Allen. Ma se dovesse essere un uomo gay, affari suoi. Io nella vita della sessuale amorosa degli individui non voglio entrare. Però l'adozione o addirittura... No, a me non mi piace il mercato dell'utero, dello sperma e degli ovuli. Non ti piace sto mercato qua? Tutti gli italiani sono contro questa cosa. No, perché sennò io te posso vendere un rene, te serve? No, c'è ragione. Te posso vendere un tendine. È così. A parte che già me esiste. A me dà anche già un po' fastidio sta cosa del trapianto. Vabbè, quando sono morto, se mi serve qualche cosa. Ma il mercato degli organi... È un po' diverso, privarsi di un organo e mettere al mondo un bambino. Comunque, lasciamo perdere, dai. Vabbè, appunto. Sì, è un po' diverso, dai. Non è proprio la stessa cosa. Ma tu sai che è diventato nel tempo anche vegetariano, se non sbaglio, Montesano? Ma va? Sì, credo di sì. No, io proprio vegetariano, nel senso, io non mangio più le cose degli animali. Ah, non mangi più, sei diventato proprio vegano quasi. Sì, che poi è la contrazione di vegetalian, vegan. No, ma veramente sei diventato vegano? Sì, sì. Ma proprio molto meglio. No, ma secondo te gli animali sono come gli esseri umani, cioè ammazzare un animale è come allora tutti quelli che dicono ah no, il diritto, io devo essere padre, i cani, per carità, poi dopo vanno a comprare la polpetta, hanno ammazzato il maiale, hanno ammazzato il bue, hanno ammazzato i pesci, vabbè. Perché si possono ammazzare. E dunque chi mangia la carne praticamente è complice di un assassinio. Chi mangia la carne inquina il mondo, ammazza un animale impunemente con ferocia e si fa del male, ma vogliono che noi ci ammaliamo mangiando male, così ci vendono le medicine. Big Pharma comanda. Bah, spettacolare sta cosa qua. Io sono totalmente dalla parte opposta, cioè penso che tu stai prendendo una china, caro Enrico, veramente quasi da nazi vegano. Una china Martini. Quasi da nazi vegano, cioè sembri veramente, cioè se tutto il mondo fosse la pensasse come te, ma sarebbe un disastro assoluto. Ma pensa, se tutto il mondo la pensasse come noi, ci sarebbe meno inquinamento. Ma non è vero, ma sono tutte non si dovrebbero consumare ettolitri di acqua, ettari di terreno per fare una balla di fieno da dare dal mangime a questi qui. Ma tu hai fatto febbre da cavallo, amico mio. Il cavallo se monta, non se magna. Il cavallo è un essere umano. Non è un essere umano, non il è come noi. È un essere vivente. Dice, oggi mi sento bene, sento De Vinci. E vai. Meglio i cavalli, dici te, meglio i cavalli. Meglio i cavalli dell'omini. Vabbè, ma Marchini, per esempio, che è uno dei candidati a Roma, ti piace o no? Il presidente Marchini era un presidente di una squadra fortissima. Com'è che avrebbe... La Roma migliore che aveva... Ma quello non è, quello era il padre. No, è un altro Marchini. Vabbè, ma è una brava persona, che vuol dire? Era forte, come il nostro Lenzini. Com'è che direbbe la Miss cosa? Molto piccionesco Marchini, è un bel ragazzo. Ma lo voteresti Marchini? No, io tu voti Montesano. No, io no. Io voto, se mi presento, voto per me. Allora, nel libro confesso, sì. Ovviamente ci deve essere qualche confessione. Allora, dice qualcosa di inedito. Sei mai stata trans? Ecco, quella la cosa mi incuriosisce, vedi? Ah, ti incuriosisce. Cioè, ti incuriosisce che cosa? Il fatto di... Mi incuriosisce... Sessualmente, un trans ti incuriosisce? Nel teatro gli uomini facevano le parti delle donne, cantavano con la voce da donna. Sì, sì. È sempre stato così. Quindi ci sono queste trans che sembrano delle donne, perfette, delle ragazze, bellissime. Sì. Tu non capisci. Un po' ti inquieta, no? Ma a parte sei inquietato però anche... mia moglie non mi manda. Ah, non ti manda, Tua moglie non ti manda. Quello... Io ho una moglie, voglio ciao, dire. Ciao tesoro, ciao, presto, ciao. Crucia, tu sei pervert, questo sei un gran pervert. La Zanzara. Cruciani, fossero andati i tuoi genitori in Russia a prendersi un bambino su misura, così non si ritrovavano uno stronzo galleggiante come a te. Stop. Ain't nobody knows. Allora ragazzi, mi ha scritto un tizio dalla provincia di Parma, Parenzo, sull'argomento foibe, no, non vi smentite mai, era chiaro che l'argomento l'avreste trattato con sufficienza. Noi poi, no, ribadisco. Sì, ribadisco quello che vi ho scritto, se si fosse deriso l'Olocausto si sarebbe scatenata la terza guerra mondiale con il vostro stupido e fazioso atteggiamento. C'ha ragione su questo. Ma sì, può ma darsi. Nessuno ha criticato niente. Ma però. Nessuno. Che cosa dovevamo fare? Ho detto semplicemente che organizzare una petizione per boicottare una radio, in questo caso nemmeno la Radio 24, ma RTL, dunque un'altra radio, è ridicolo. È ridicolo. Passate il vostro tempo a fare cose più degne. Abbiamo criticato, ci siamo messi a ridere. Sì, è vero, ci siamo messi a ridere perché è un po' ridicolo quello che è successo. Vogliamo fare riascoltare questa cosa di RTL? Che dici, delle foibe? Così tutti, perché qui c'è l'audio originale. Perché nessuno aveva ascoltato l'audio. Da un certo punto di vista è una cosa che abbiamo solo noi, no? Sono riuscito oggi a fare un'operazione per riuscire ad avere questo cazzo di audio. Nessuna operazione particolare, ho chiesto a un signore che aveva a fare un'operazione, sì, perché era introvabile, perché non ci sono i podcast. Watergate, no, non ci sono rapporto Pelican, che roba, no, non ci sono i podcast. Ustica, per avere questo Ustica, audio che hai fatto, cosa hai trovato, il missile francese che ha colpito il 19? No, ragazzi, semplicemente ho una... trovato l'audio di RTL. Mamma mia, ma sei un coglione, sto dicendo che bisognava avere la registrazione che nessuno aveva sentito, l'originale, che è questo, dai, non rompere il cazzo. Nessuno aveva sentito questa registrazione. Ma tu ti sbatti per altre cose, non si capisce perché. Io mi sbatto per queste cose radiofoniche, per cui quello è, dai. Allora, siamo lunedì, sì. Siamo martedì, sì. Dopo la prima giornata di Sanremo, in una settimana di tante ricorrenze, San Valentino, oggi tra l'altro una giornata del ricordo delle foibe. Carlo, vuoi fare un ricordo? Se non sai di cosa parlare, di passo. Allora, io ho visto anche il dopo festival ieri sera, cioè no, non mi sono fermato. È una cosa solo. Seria, dobbiamo ricordare. Sai cosa sono? Giornalista è la Jennifer. Sai cosa sono le foibe, a cosa si riferiscono? Era una marca di cucina, no? Non scherzate su queste cose, hanno trucidato degli italiani, oggi è il giorno del ricordo. Ma perché non rimanete non a casa, cioè, dei giorni? Lo sai che Silvia, non lo perdonali, so. Silvia, no, perdonali. Certo, no, mi pare in via Rasella. Lascia stare lei a Roma. No, te lo dico io, erano Rasella, gli ex Roma. Partigiani cioè i partigiani dell'ex Jugoslavia mischiati, dice la storia, con altri italiani, insomma si è fatto un altro schifo, sì, dell'umanità. Ma parliamo di canzoni, dai! La marca di cucina, hanno massacrato degli italiani in via Rasella. Vabbè, nessuno ci scherza, è ovvio, uno si può mettere a ridere pure su queste cose, sulle gaffe, non per le foibe, cioè non è che ci siamo messi a ridere, sì, per le foibe, cioè la foibe è una cosa serissima. Sul surreale, su quella discussione assurda. La discussione surreale, però boicottaggio lasciate perdere. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo Massimiliano da Roma, vai, 800. Andiamo, che poi andiamo tutti al cinema. Ma no, su, ma manca un'ora, amico mio. Ma come un'ora? Stai qui a combattere, c'è un sacco non di roba al adesso. Cinema, tu ma che al cinema? Io lascia vado al cinema, vuoi sapere a vedere che cosa? Ma chi se ne frega, no. Massimiliano da Roma, dai. No, perché c'è sto problema. Che... Luciani, buonasera Parenzo. Ciao Carlo, io volevo dire questo, curioso, che mia moglie non vuole andare a vedere Quentin Tarantino perché dice che 3 ore non riesce a star seduta perché sta per partorire praticamente. Ha ragione. E quindi 3 ore di Tarantino ha non ha ragione, vuole. Ha perfettamente ragione. E quindi andremo. Ma scaricatelo illegalmente da internet. No, mai, perché sei matto. I film vanno andati al cinema, va a comprare. Scaricatelo illegalmente da internet. Vanno comprati i popcorn, vanno pagati. Ma io faccio tutto popcorn, quello che è possibile per fottere le produzioni originali. Che sei una brutta persona. Ma che sei, ma cioè, è un reato. Come si chiama? Popcorn, mettere la galera per popcorn, chi TV, tutti quei tuoi siti là dove vedi tutto gratis. Faccio di tutto per fottere le produzioni. Ma tutto, no, di tutto faccio, di tutto, qualsiasi cosa. La bellezza di vederlo al cinema con gli altri che respirano, i rumori di fondo. Così, vai, condividere nel grande schermo. Io mi addormento al cinema. La magia del grande, ma che proprio la una magia persona del... ma come fa? La magia del grande, la magia schermo, del grande schermo, con i titoli di coda che scorrono, i popcorn enormi. Comunque lei non vuole andare a vedere quello. Ce ne faremo una ragione, dunque. E quindi invece andremo a vedere Credo Perfetti Sconosciuti. Oh, qual è il questa problema? Poi, questa invece è una notizia bellissima. Le grandi inchieste di Parenzo. Allora, non vuoi parlare delle onde dei bosoni? No, ma andrete a vedere Perfetti Sconosciuti. Quattro stronzi che ogni 2 minuti parlano di culi e di froci, proprio in questi termini. E io che ti do una notizia, vado qual al è cinema. La notizia? Quale sarebbe la notizia? Il problema è che il cinema dove vado, quello del signor Ferrero, cioè c'è sempre una coda. Quindi faccio un appello, se ci sta ascoltando, mi mette ovviamente pagando da parte 2 biglietti per le una raccomandazione per due biglietti al cinema, sto stronzo. Non importa, ci sta. Chiamalo, va un attimo, che voglio chiedere i biglietti in diretta. David! Chi è Murginella, Murginella? Com'è che faceva? Cazzeggiando, cazzeggiando. Molto lo chiamo, va, molto lo chiamo. Molto chiamalo, lo chiamo. Ti dico che vado al cinema, chiamalo. Molto lo chiamo. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Ma chi è sto stronzo? Questa l'hai ascoltata. Ma chi è straordinaria. È un messaggio che è arrivato. Ma chi è sto stronzo? Come si può vedere? Questo è meraviglioso. È uno stronzo. Fammela risentire questa che non l'avevo sentita bene. Fammela risentire. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. Questa prima del traffico bisogna metterla. Allora, un altro scrive: RTL è una radio di merda e va boicottata a prescindere. La radio di sistema, ecco, Franco da Novara, un coglione. Questa è una radio di sistema. Che vuol dire una radio di sistema? Massimiliano da Roma, dai. Dai, c'è certa gente. Innanzitutto volevo dire che Parenzo fa benissimo andare al cinema e dico a tutti gli ascoltatori di andare al cinema e non di scaricare la merda da internet. Che poi il cinema muore. Vabbè, chiusa parentesi. No, bravo, hai ragione, certo. Chi se ne frega? Non è che muore per quelli che scaricano, muore perché fanno delle porcherie, magari. No, tutt'altro. Andate a vedere Tarantino, che è un bel film. Vabbè, chiusa parentesi. Oh, vabbè. Brava, vedi, ogni tanto qualche ascoltatore Tarantino, se uno vale 10:30 a vedere Tarantino, sicuramente si addormenta, ma matematico al 100%. Cioè, io mi addormento in ogni caso. Tarantino alle 10:30 è matematico al sonno, ma poi matematico, sicuro. Cioè, 22:40, ma vabbè, peggio. Ma senso, comunque devo parlare di cinema con uno che non sa manco che è Umberto D. Amico sì, mio! Ecco, beh, allora, qual è il problema? Hai problemi? Io ti posso citare 40.000 cose che non sai tu. Vabbè, chiudiamo parentesi, io chiamavo per un'altra cosa. E ne vado pure orgoglioso di non sapere che cos'era Umberto D. Cioè, vado pure orgoglioso di questa cosa, non ti preoccupare. Vabbè, è un culto della zanzara. Amico vai, mio. Massimiliano, vai. Tranquillo. No, chi prende a male? Sono qui che parlo con te, tranquillo, mica ti ho buttato giù il telefono. Chiamavo per un'altra cosa, quando hai paragonato il Pirellone con scritto Family Day con gli nastrini sui microfoni. Assolutamente. Inopportuno al massimo. Ma che inopportuno? Ma assolutamente, ma sono due cose diverse, è chiaro. Lì è una scelta del governatore che rappresenta tutti noi, ovviamente, soprattutto quelli che lavorano e vivono in Lombardia. L'edificio tutti noi. Ma anche l'edificio di Sanremo in quel momento rappresenta tutti noi, è pagato con i soldi pubblici. Vabbè, e come no? E da chi è pagato? Montanini pure, quando fa il programma suo Nemico Pubblico, rappresenta tutti noi. Montanini dice le sue cose e fa bene perché è un grande. No, è un po' diverso. Però... la cosa. Dai, non è molto diverso. Sono due artisti. No, è molto diverso. Lì c'è una produzione, che è quella di Sanremo, che controlla minuto per minuto quello che accade, secondo per secondo. È vero. E dunque, portare quei nastrini lì a Sanremo è chiaramente una scelta. Diciamo che se fatto il contrario, esatto, ci sarebbe stata una bagarre sicura. Se qualcuno voleva portare un nastrino con scritto Noci di Na, con scritto lascia perdere Povia, non si parlava all'epoca. Ma non si parlava. Sì, ma non si parlava di queste cose. Ma questa volta ha ragione Cruciani, guarda, perché fosse accaduto il contrario, cioè un singolo striscione, non tre giorni di nastrini che io condivido, ma un singolo sarebbe venuto fuori un casino, indubbiamente. Questo è il fondo dubbio. Ma Palazzo Chigi, uno scrive Viva Renzi. Che facciamo? Scriviamo Viva Renzi su Palazzo Chigi. Scusami, io ti parlo uno che è a favore del matrimonio e dell'adozione, per cui non sono attaccabile da questo punto di vista. Però ti dico che di fronte a questa ondata, a questa ipocrisia dilagante del fatto che è normale esporre una cosa a favore della legge Cirinnà in prima serata su Rai 1, televisione pubblica pagata dagli italiani, e nessuno si indigna, mentre al contrario la gente si è indignata quando Maroni, secondo me sbagliando, ha messo la scritta Family Day al Pirellone, io noto questa ipocrisia. Ed è una chiara ipocrisia, perché se, come dice Parenzo, una serie di artisti fossero andati lì con una scritta Noci di Na, sarebbe successo un casino. Avrebbero detto no, è sbagliato, la televisione pubblica è il messaggio. Invece quel nastrino, e anche le parole di Ramazzotti, che fra poco sentiamo, le parole pronunciate da Rosa Ramazzotti, è chiaramente un messaggio costruito, voluto a favore di una legge. Questo è evidente, bisogna dirlo, e ti parla qualcuno che non è contrario, è a favore, capito Massimiliano? Talmente tanto che ormai è diventato un tema di pubblico interesse, se ne è parlato pure troppo. Ma questo che c'entra, scusa? Questo non c'entra niente. C'entra che un artista è normale che possa mettere un nastrino, non è che ha detto no, ma io non ti sto dicendo tutti che sono dei criminali questi qua, sto dicendo che fanno pure bene, però io noto l'ipocrisia perché manifestano un loro desiderio, diciamo, manifestano una loro opinione. Però chi si è indignato per l'utilizzo del Pirellone, per la scritta Family Day, o addirittura per il fatto di trasmettere dei servizi o di mandare in onda le dirette del Family Day, eccetera, eccetera, questa volta qui non si indigna. Invece sulla televisione pubblica, pagata da tutti noi, passa un messaggio che è chiaramente a favore della legge Cirinnà. E io dico, aggiungo anche altro. Si ha il diritto di essere contro la legge Cirinà. Cioè, chi non vota la legge Cirinà non è un povero criminale, cioè non è un omofobo di merda, non è uno schifo umano, è una persona che pensa che non ci vogliono le unioni civili, è una persona che pensa che non ci vogliono la stepchild adoption, quello che è, ed è legittimo pensarla così, o no, Massimiliano? Non ho capito. Carlo Conti ha detto: mi raccomando, votate tutti la legge Cirinà. Erano degli artisti che l'hanno fatto. Sì, è vero, minuti, è vero. Carlo Conti, minuti. Carlo Conti non è, sarebbe stato diverso, chiaramente sarebbe stato più clamoroso se Carlo Conti avesse detto una cosa di questo tipo. Però ti ripeto, io noto l'ipocrisia di chi si è scagliato contro Maroni, vero, che, vero, ha, vero, che ha fatto pubblicità al Family Guy, e nessuno dice niente in questo caso. Cruciani, come mi stai sui coglioni? La Zanzara. David, se vuoi lo chiamiamo davvero. Chiamalo, chiamalo, sì, sì, chiamalo. Ferrero, Aspetta, aspetta. Vuole i biglietti? Non avete capito? No, ancora. No, no, non gratis, attento. No, vuoi voglio pagarli, ma che me li metta da parte, mi sembra una coda pazzesca là tutte le volte, cioè, un casino. Vuoi saltare la coda? No, non saltarla, aspetta, perché aspetta, lì prenotarli aspetta. Non funziona un cazzo quando li prenoti al telefono. Aspetta, vuole i biglietti? No, non gratis, Massimo? Chi è? Massimo? Sono Parenzo. Parenzo, sono Parenzo. Ciao Massimo, scusami se ti disturbo a quest'ora. Dove ciao. Sei? Dove sei? Dove sei? Sto a Roma. Sto. Senti, ma Parenzo qui, vai, chiediglielo te direttamente, Davide. Dai. No, io voglio, devo venire al cinema alle 22:40 lì a vedere Perfetti Sconosciuti. Pensa mi puoi tenere da parte due biglietti per cortesia? Li pago, ma tienimeli da parte, perché è sempre un casino lì le prenotazioni online. Ma non lascialo perdere, Massimo, ti rendi conto uno? Scusami, ma che mi state chiamando per biglietto? Beh, ho capito, Massimo, no, biglietto, ma è capito, Parenzo però. Che ha voluto per forza chiamarti per il biglietto. No, ho detto già che ci siamo. Beh, roba non me ne frega niente. Beh, ho capito, scusa, però. Parenzo, parlaci tu. Corto? Ma che braccino corto? Ma quale braccino corto, Ferrero? Ho detto che li pago, ma metteli da parte perché ogni volta ma è un casino. Si dice sempre così, si dice. No, ma te realtà, li pago sti biglietti. Ma sì, si dice così, vabbè, ma insomma, aspetta, Ferrero. Massimo, scusami un attimo, scusami. Vabbè, Massimo. Non c'è problema. Ah, allora glieli metti da parte? Allora, però devi chiamare, scusa Massimo, chiama che cinema è, Davide, scusa? Beh, quello che c'è in piazza Cavour, dai, non voglio dire il nome. Adriano, sì, l'Adriano, vabbè, che sì. Me frega a me. L'Adriano. Dimmi, Massimo, ma dimmi. Ma che cazzo è stato chiamato? Lo so, ma che devo fare questo? Mi ha costretto a chiamare perché vuole i biglietti. Ho capito. Ma è chiuso. Ah, maleducato però, scusa. Giustamente ci ha mandato a fare in culo, non è che uno lo chiama. Ma in diretta. Ma maleducato. Chiama Auriemma. Ma che c'entra Auriemma? Non lo so, dai. C'è Auriemma c'è da sempre. Va bene, Cristiano da Milano, dai. Cristiano Malgioglio. Ma tu ti rendi conto che mi hai fatto fare? Sì, cioè mi hai fatto chiamare in diretta Ferrero per farmi mandare a fare in culo per prenotarti un biglietto per tenerti no, da parte due biglietti. Da parte, perché dai, sei un casino lì. Cristiano da Milano, e nemmeno l'abbiamo. Siamo poi arrivo, a... sono in fila, Parenzo, facciamo il selfie, Parenzo, Mauro da Mantova. Cristiano da Milano. Ma quale Mauro da Mantova? Pronto? Manco i selfie con gli ascoltatori fa. Sì, no, quello va bene, poi c'è, Mauro da Mantova, dico. Beh, certo. Poi fosse una star, Mauro da Mantova. È una star. Vabbè, Cristiano sì. Da Milano, vai. Che mondo, pronto? Che mondo. Cruciani. Dimmi. Ciao. Sentiamo questo aspetta, Cristiano aspetta, magari aspetta, interverrà dimmi. Sulle onde magari. Dimmi Cristiano amore Cristiano. Dimmi tesoro anche ne so se è Parenzo che mi disturba o limone o ascolto Parenzo o limoni che vuol dire limoni bacio no ero qua con la mia ragazza stavo limonando stavi va limonando bene. Con la tua ragazza certo, ma facci sentire che bel limone non potevi come continuare si fa la limonata com'è la limonata non esagerare ma non esagerare allora, ma hai detto tu che stai a limonare che stavo detto io ma è incredibile carico, tu mi hai detto sto limonando con la mia ragazza mi di, no, Parenzo mi disturba sì. Ho detto fammi sentire la limonata no non esagerare scusa dai vai vabbè. Allora ti volevo dire che ieri sera vabbè è una tragedia Cruciano è una tragedia per raccontami noi sta tragedia dai perché a noi che ci piace diciamo il stesso E ti ci metto di mezzo anche. Ma non mi mettere in mezzo a cose tue, no, adesso, scusa. Ti ci metto di mezzo, compà, perché compa, è una vita che parli compa di sesso, di cose. Siete amici, così, sì. Vabbè, dai, siamo tutti un club adesso. No? Ma non siamo un club, ma io non appartengo a nessun club. Non mi sono mai iscritto a nulla, non ho mai preso la tessera nemmeno della la tessera dello stadio una volta, avevo tanti anni fa, ma insomma mi sembrava già abbastanza. Vabbè. Insomma, ieri sera io e la mia compagna. La tua compagna, ragazza, sì. Sì, siamo voglia di sempre un po' in giro, no? Così, sai, pomeriggio, se lì insieme, dice che facciamo stasera, e volevamo andare a trans. Okay? Volevate, scusa? Andare a trans, Cioè, volevate una trans, ma chi l'ha chiesto? Ma tu, no, lei? Non volevamo una trans, volevamo andare a trans. Vabbè, uguale, insomma, volevate un trans con cui passare la serata. Te l'ha chiesto lei? Cioè, è lei che ha questo desiderio. Siccome si annoiava. No, va bene, lei non è che ha questo desiderio, ce n'è anche altri, però questo è uno di quei, no? Sì. Siamo sì. Una coppia. Allora, siamo andati a Milano. Giuseppe. Siamo andati a Milano da dove? Mamma mia, abbiamo fatto tutto l'estate di Milano. Sì, parla meglio però, più vicino, sennò non capisco nulla. Abbiamo fatto tutto il giro di Milano, centro, cose, le vie, adesso non mi ricordo che vie erano, quella via Zara. Ah, ma passamela un po' la tua fidanzata, scusa. No, come, passami la fidanzata, eccolo. Passami la fidanzata. Ma che su? Passamela, sta là accanto, sento la voce, passami sta fidanzata. Comunque hai fatto tutto via Zara, poi? Io non sono interessante. No, se, per adesso sei interessante, però siccome ho sentito una voce femminile. Allora, stavo dicendo, poi finisco, poi te la passo, non c'è problema. Sì, sì. Ah, siamo andati via Zara, piazzale Firenze, piazzale Lotto. Ma abbiamo fatto su e giù, ma non ti puoi immaginare, non abbiamo trovato. Ce n'era uno che assomigliava a Pavarotti, era impossibile. A Pavarotti. Mamma mia. Povero Pavarotti. È veramente la decadenza, proprio la decadenza. Vabbè, amico mio, però se tu vai per strada a cercare i trans a Viale Zara, ti credo. Fai una telefonata, no, vai sui siti. Al... chiama Efe Balla, ti do il numero di telefono, chiama Efe e risolvi. Ma no, Giuseppe. Era un desiderio, no? Andiamo a cercare per strada. È un po' un desiderio. Ah, una perversione, dici. Vabbè, allora, siamo partiti. Siete partiti? Non avete trovato niente. Sto trans, questa è la notizia. Scientificamente provato. Allora? Siamo finiti lì. Allora, io gli ho detto a un certo punto, amore mio, l'unica cosa da fare è andare in Viale Monterosa. Che Cruciani dice che ci sono le mignotte sotto. Sì, ma non le trans, però, magari anche. No, non so. Bravo. Ma in mancanza di trans le cronache delle notti milanese di Cristiano e della sua fidanzata. Ti devo fermare perché abbiamo il traffico, se non sbaglio, no? Andiamo con questo traffico avanti. Andiamo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico. La Zanzara. Brutto crucianaccio infame maledetto, la mi tocca fammela a piedi tutte le sere perché nella metro non ci piglia il telefono, maledetto te per ascoltarti te, hai capito? Brutta parruccaccia che non sei altro. Allora, io completerei questo racconto di Cristiano, però, Parenzo. Arriverei a una conclusione. Cristiano e la sua ragazza alla ricerca di un trans a Milano di notte. Vabbè, d'accordo, cosa non particolarmente originale fino a questo momento. Arrivano a Via Monterosa a Milano. E che succede qua a Via Monterosa? E che succede, Giuseppe? Insomma, non trovare una trans a Milano di notte mi sembra una notizia da prima. Ma non l'hai trovata? Non hai trovato quella che ti piaceva? Non è che non l'hai trovata? No, Giuseppe, non ce n'era completamente. Cioè, proprio da vabbè, ma che vuoi da noi adesso? Giustamente Parenzo si domanda, che cosa vuoi da noi? No, a questo ma punto? Ormai non mi domando neanche più niente, figuriamoci. Posso domandarmi una, sembro matto io, figuriamoci. Alla fine siamo arrivati in Via Monterosa, rassegno. C'erano tre rumene, anche lì. Tre rumene, namora, una bionda, namora. E siamo tornati a casa con le pive nel sacco. Con le pive nel sacco. Passami la tua fidanzata, che è più interessante forse, Cristian. Passami la tua fidanzata, come si chiama? La mia ragazza? Monica. Monica, dammi sì, sta Monica. Aspetta dai. Che sta cucinando. Cosa cucina? Ma che ne so, cucina. La trippa, sta facendo la trippa. La trippa, ma non è vero, la trippa. Figuriamoci se fa la trippa, dai, è una cosa complessa, la trippa si mangia al ristorante. Ma come è una cosa complessa? Abbiamo preso la trippa, non ti credo di fare la pizza, te la passo. No, è vero, non è mangiano la trippa, vanno pronto? A trans, vanno sì, a puttane, ciao Monica. Mamma mia. Come ti chiami, Monica? Pronto? Monica? Sì, eccomi. Eccoci, ciao Monica, quanti anni hai? Ciao. 35 anni, ma veramente ieri sera eravate alla ricerca di una trans a Milano? Glielo giuro. Ma veramente? Che poi tra l'altro, sì, le dico, io abitavo prima in quartiere di Isola fino a un anno fa, quindi sì, mi ricordo un quartiere comunque ben frequentato, sì, da questa, diciamo, categoria umana. Categoria umana, da, persone, da, persone, da, insomma, categoria. Sì, no, no, assolutamente, io sono, nel senso, non ho, non è il contrario, anzi, anzi, quello che abbiamo fatto. Quindi, ma non ho capito, ma... la Gosta, via Lezzara, mi ricordo, non avete trovato, una vita molto attiva. Da tutto questo. E non avete trovato trans per strada, da, diciamo... No, tra l'altro mi ricordavo dei simpatici siparietti, come le dicevo, a Piazzale la Gosta. Sì. Di queste donne, queste trans comunque bellissime, sì, che molto, anche molto futuristiche in alcuni tratti. Sì. Che comunque... Ma ecco, una curiosità... Non abbiamo trovato nessuno. Non avete trovato nessuno. La curiosità mia, no, di Parenzo era... Sì, più mia che di Parenzo, in realtà. No, no, ma è questa. Perché, Monica, cercavate un trans... Sì, ecco, perché non si divertiva col compagno, insomma, no, abbastanza, magari voleva provare, no, delle proprio, cose nuove, proprio perché ci divertiamo, cioè, mi sembrava un modo per divertirsi, ve lo volevate fare, insomma, cioè, volevate, esatto, utilizzarlo come, esatto, un giocattolo, ma non ho capito, ma non, sì, ho capito, come giocattolo, come oggetto, come terza parte della nostra coppia, come terza parte. Ma a lei ti sarebbe piaciuto anche l'accoppiamento tra lui e il trans, tra il tuo, tra, beh, il tuo... sì, quantomeno un accoppiamento di natura orale l'avrei apprezzata moltissimo. Ah sì, eh? Cioè, lui... Qui siamo a livelli, ma, cioè, diciamo, dire, ma c'è un degrado morale. Ma è il degrado morale, questa è la vita reale. Non mi sembra degrado. Esatto, brava. È la vita reale. Monica, fidanzata, un grande esempio. Le dico la verità, non la trovo neanche una perversione. La trovo... Sì, questa è vero, ormai è una cosa abbastanza normale. È una cosa... Convincetemi. Se è normale che tu chiami Ferrero per ottenere dei biglietti o comunque di metterti da parte dei biglietti per andare al cinema, perché non dovrebbe essere normale che Monica, fidanzata, guarda, di Cristiano, preferisce, vuole vedere. Nel senso, siamo una coppia regolare, non abbiamo... Beh, regolare che vuol dire? No, regolare, no, nel, proprio, no, nel senso, non siamo una coppia particolarmente stabile, siamo una coppia normale. Cioè, tu, a te sarebbe piaciuto... professionisti, laureati... Sì, certo, a te sarebbe piaciuto vedere l'immagine del tuo ragazzo Cristiano che fa sesso orale con il trans, questo è il punto, no? Giusto. Cioè lui... Esattamente. Hai espresso perfettamente quello che è. Famiglie italiane. No, ma scusa, ma anche invece l'accoppiamento, e invece il trans che praticamente si fa il tuo ragazzo, no? No, anche quello sarebbe andato bene. Diciamo che ieri sera era nata così perché eravamo in giro, quindi era una cosa da accettare. E quanto eravate disposti a pagare? Fino a 100 euro per una persona. Fino a 100 euro. Io avevo 100 euro in tasca. 100 euro. Euro. Certo. Parenzo, è così, c'è chi spende 100 euro. Le dico non conosco assolutamente le tariffe, era una fantasia estemporanea, sì, che assolutamente volevamo realizzare. Ma sei molto molto lucida, Parenzo, è la, sì, la normalità. Sì, no, va benissimo, è una straordinaria pagina di informazione, va benissimo, ma non c'è, io non è che critico niente. Ciao Monica, ciao, salute. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao. Ragazzi, bisogna abituarsi a queste cose, a una vita, sì, che si fa sempre più stressante. Le persone escono la sera, vanno in macchina a cercare fortuna, cercare... Secondo te, Parenzo, gli italiani conoscono il vero significato delle parole che stiamo ascoltando da un po' di giorni a questa parte? Cioè il significato delle parole gay, eterosessuale, omosessuale? Mi auguro di sì. Secondo me non troppo. Abbiamo fatto questa piccola indagine in alcuni paesi della Sicilia. Senti. Pronto? Buonasera signora, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Mi dica. Le fanno paura gli eterosessuali? Ma guardi, io no, questa parola mi viene il vomito. Affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No, no, mi dispiace, no. Per quale motivo, se posso chiedere? I bambini nascono da una donna e da un uomo. Eterosessuali proprio non ne vuole sentire parlare? Assolutamente, eterosessuali e altri nomi di questo genere, mi dispiace, non sono d'accordo. Se avesse scoperto che suo figlio è eterosessuale, cosa avrebbe fatto? Lo avrei aiutato in qualche modo. Pronto? Sì, buonasera signora, qua l'Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS. Che sondaggio fa? Che cos'è? Ma lei affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No. Posso chiederle per quale motivo? È perché i bambini hanno bisogno di un padre e di una madre. E così è stata la vita. Prego, dica. Lei affiderebbe un bambino ad una coppia eterosessuale? No, per niente. Perché sono delle persone umane che ovviamente sono diverse, oddio. Sì. Posso rubarle solo 30 secondi? E vediamo se ci dà il suo rispondo. Le fanno paura gli eterosessuali? Sempre mi hanno fatto paura, da bambino. perché sono nato così e solo le donne io posso vedere. Le rispetto perché sono effettivamente abbastanza umano. Lei affiderebbe un bambino a una coppia eterosessuale? Perché il bambino nell'atto incomincia ad andare alla scuola materna, comincia ad essere umiliato dai compagni. Stia tranquillo. La ringrazio. Per carità di Dio. No, ma a me lo sai cosa mi fa impazzire, Parenzo? A me fa ma forse perché appunto non stavano neanche a sentire, cioè sentivano la parola sessuali, allora non è che stavano lì a pensare etero vuol dire, ma capito? Che vuol dire? Eterosessuale vuol dire eterosessuale. Ma perché no? Sì, no, certo, però non stavano. Punto e basta, che lo stavano ascoltando? Eterosessuale, perché poi la voce del sondaggista è abbastanza chiara, quasi robotica, forte, il sondaggista, no? Bravo, sì, quasi no, robotica. Certo. Non ho mai sentito questa società AIDS che fa i sondaggi, francamente, però sarà qualificata. Associazione Italiana dei Sondaggi, detta no, AIDS. Sarà autorevole, io non l'ho mai sentita, però, per carità. Oddio, ragazzi. Elia da Milano, vai, Elia. Signor Elia. Ci sono? Vai, dimmi. Sì, mio cuginetto di Milano si chiama Elia, figurati. Vai. Anche tuo figlio si chiama Elia a modo suo. Vabbè, ho capito, però Elia, come se fosse Elia, dai. Permetto di sentire meglio. Sì, mi permetti, vabbè, ho capito, però Elia, dai. Allora, sì, io lo chiamerò Elia. Ma non puoi fare quello che vuoi, ma non si chiama così, si chiama Nathan, comunque non importa. Vabbè, vai Elia. Noi italiani ci siamo stufati di dover acquistare droghe leggere dalla criminalità organizzata. Dalla criminalità organizzata? Ho una domanda, Parenzo, come fai ad acquistare cannabinoidi senza trasgredire la legge? No, è molto semplice, guarda, adesso è tanto ormai, veramente, sarà un anno e mezzo, quasi due anni che purtroppo non si rolla, però una volta c'era un tizio che aveva... Ma che è niente, uno spacciatore? No, io sono mai andato perché non sapevo neanche trattare con fratello che dice buono i 50 grammi quanto 50 euro? Grammi, che 50 grammi? Non lo so quanto, però c'era uno con cui si fumava e lui procurava tutto e lui aveva uno di fiducia. Cioè, diciamo che arrivava. Vabbè, allora Elia? Non ho capito. Fate qualche petizione, spingete forte, caspita. Ma perché cosa? Per la legalizzazione? Esatto. Amico mio, abbiamo piantato una piantina qua in redazione, adesso non so che fine ha fatto sta piantina, adesso daremo informazioni nei prossimi giorni. Noi siamo, io almeno sono a favore della legalizzazione della droga leggera da un po' di tempo a questa parte, cioè, è una cosa che abbiamo ripetuto mille volte. Che palle i ladri, basta, cambiate argomenti, per favore. Elia, non è che possiamo parlare di canne, quante canne ti sei fatto oggi? Ma zero, per fortuna, per ora zero. Stasera? Boh, magari un paio. Quanti anni hai? 25. Beh, distrutto. Siamo al top. Ciao. Mi raccomando, non esagerare. Fate cagare, ma è quel cagare che fa godere. State ascoltando un programma offerto da... Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. La Zanzara. Ciao ragazzi, sono Domenico, il tassista di Milano. Avrei una prenotazione alle 8:15, devo portare due suore in centro. No, nulla di peccaminoso. Vi chiederei di non parlare di figa in quei 10 minuti, è una cosa breve. Gentilmente, grazie mille. Ah, questo è un genio assoluto. Sì, questo me l'hanno segnalato in tanti. Anche oggi un tassista che ho visto mi ha detto sì, tutto benissimo. Alle volte abbiamo sul taxi delle signore eccetera che storcono il naso eccetera. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Quindi sono costretto ad abbassare. Ce ne faremo una ragione. Segnalerò alla produzione. Sì, sì, si può segnalare tranquillamente. Ma lo segnalerò alla produzione. Ma infatti hai segnalato giustamente. Intanto gli attivisti che erano lì al Senato erano degli attivisti omosessuali di alcune associazioni omosessuali, quelli che sono stati accusati da Giovanardi di baciarsi, smentiscono, non c'è stato nessun bacio, ci siamo solo scambiati degli sguardi. Ma tu ti rendi conto di cosa si deve discutere se due signori che erano seduti in tribuna al Senato si stessero baciando o no? Secondo Giovanardi si stavano baciando e dunque erano degli agent provocateur, come si dice, degli no? agent provocateur, dei provocatori. Quando parli, quando ogni tanto fai sfoggio di cultura, beh, agent provocateur, oppure sbagliato, agent provocateur, agent provocateur. Siamo in collegamento però con Washington. Bene. Grande ritorno alla Zanzara, Parenzo. Non siamo in collegamento con Rocco Siffredi dagli Stati Uniti molto stavolta, bene, bensì con Edward Luttuak. Ah. Buonasera, professore. Buonasera. Come sta, grande professor Luttuak? Beh, io per il momento sto bene. Per il momento bene. Beh, quasi. Quasi bene. Ah, raffreddore. Ma è raffreddore brutto, una cosa brutta. Sto mettendo bollettini ogni mezz'ora. Ah, che sta facendo? Sto mettendo bollettini ogni mezz'ora sul mio raffreddore. Professore... Colacavod, grande professore, Colacavod, grazie, come diciamo noi. Che è Colacavod? Ma che niente, parla di ebraico tra di voi? L'ebraico ci vuol dire massimo ogni rispetto. Onore. Ma per carità. Ogni onore. Ogni onore. Azak Baruch, Azak Baruch. Che è una ma ragazzi, molto ma bella. Tradurre in italiano? No, forza. Benedetto forte. È molto bello, cioè, da dire, è bello che tu dici in ebraico Baruch e lui traduci in italiano, questa sì, è una cosa incredibile, cioè. No, ma è molto bello, dovresti imparare Kazak, forza, è un bel gesto dire una persona, perché è proprio, vabbè, credo, no, però qui si parla in italiano, non in ebraico, ma si può dire anche delle cose, sì, intelligenti ogni tanto. Andiamo allora avanti. Professor Luttuak, io volevo chiedere subito la sua opinione sulla vicenda di cui non ci siamo mai occupati noi, no, qui alla Zanzara, per fortuna, che però è importante naturalmente, quella dell'italiano in Egitto che è stato, bravo, certo, è morto, insomma, adesso, ma guarda, Bisogna avere due posizioni completamente separate. Cioè? La prima è che è sempre una tragedia quando qualcuno muore. E vabbè, questo... È una tragedia per lui, per la sua famiglia. E sì? Diciamo, non cancelliamo una tragedia. No, quello è chiaro. Poi... La seconda cosa è che assolutamente è vietato picconare il governo egiziano. Non bisogna prendersela con gli egiziani. Il governo egiziano di oggi è già fragilizzato dagli attacchi terroristici. Sì. E confronta e lotta ogni giorno contro l'espressione nel Sinai del sì, Dawlat al-Islamia, cioè lo Stato islamico. E dunque non bisogna prendersela con l'Azizi. In più è quello che ha salvato l'Egitto, sì, e ha salvato l'Europa, devo dire. Dalla più pericolosa minaccia che c'era, che è il regime dei fratelli musulmani. Dunque tu stai dicendo entra, va difeso democraticamente, sì, e stava smantellando la democrazia. Cioè è più importante, scusami se traduco, sì, professore, è più importante il rapporto con al-Sisi che Regeni, questo è, che il giovane ragazzo. No, guarda, uno può occuparsi del Regeni a livello umano, però qualsiasi picconata, qualsiasi danno, erosione, sì, contro un regime che è già stato fragilizzato. È sbagliato. Che è l'unica barriera fra di noi, è un'anarchia tipo libica in Egitto. Sì. E sarebbe assolutamente per cui tu dici il governo italiano, irresponsabile, il governo italiano, ho capito, il governo italiano alla fine non farà niente, tutte chiacchiere, distintivo alla fine, no, spero, sì, però anche l'Italia non è insignificante, è la mera espressione di, sì, un disappunto, di criticismo, qualsiasi dichiarazione italiana, sì, che erode questo regime è già irresponsabile. È già negativo. Bisogna semplicemente dire niente. Non bisogna dire niente. Gli italiani sono liberi di viaggiare dove vogliono. Sono, sì, liberi di esprimersi come vogliono. Però? Sono liberi di scrivere per il foglio o, sì, per il manifesto. Sì. Però quando loro fanno queste cose e ci sono conseguenze, sì, il governo italiano deve solo intervenire, sì, in caso quando c'è una violazione dei diritti umani dalle autorità, e non cominciare a accusare un regime generalmente sulla base di nessun fatto immaginabile. Allora, fatto. Io voglio capire una cosa, questo ragazzo, questo signore, se l'è andato a cercare scrivendo delle cose contro il governo, comunque... Cosa vuol dire andare a cercare? Tutti facciamo cose pericolose, irresponsabili. Dunque ha fatto delle cose irresponsabili? No, tutti noi prendiamo rischi, no, eccetera. L'unica cosa è che quando io prendo un rischio, sì, e ne prendo, perché per esempio a me piace fare scuba e certe volte vanno un po' oltre, e non chiedo a un intero governo di compromettere i suoi interessi nazionali, sì, per quello che succede a me. Beh, lei che cosa fa, professore? Scusi? Scuba? Dico che tutti noi facciamo cose imprudenti. E che cosa fa lei di imprudente? A me mi piace fare scuba. Ah, che è scuba? Fa immersione. Ah, sono immersioni. Però non chiedo a nessun governo di responsabilizzarsi in caso che io rimango morto, va bene? Ci sono tutta la gente, un italiano ha diritto di andare dove vuole. Ma come lo definisce lei? Come lo definisce questo? Nel limite della legge internazionale. E come lo definisce però questo il Regeni? Il governo italiano non deve picconare il governo egiziano. Ma è lui come lo giudica? Perché il regime egiziano ci sta proteggendo della più grave minaccia. Bene. Che non è lo Stato islamico. Ma questo ragazzo come lo giudica? Come lo giudica lei sto ragazzo? Democraticamente e smantella la democrazia. Ogni giorno al potere che loro erano stavano smantellando la democrazia per sé. Ho capito. Ma andranno fatte delle indagini, professore, oppure neanche quello? Le indagini sulla morte è vanno giusto che un governo chieda, che il governo italiano in questo caso o il no? Governo italiano può in maniera amministrativa, senza nessuna pubblicità, senza nessuna dichiarazione di ministri. Dobbiamo stare zitti, può essere tirata come una critica contro il governo egiziano. Ho capito, però. Il governo egiziano è più che un alleato per l'Italia. E magari questo qua l'hanno ammazzato una loro. È una barriera protettiva, è una diga che protegge l'Italia. E se l'hanno ammazzato, ma se lo hanno ammazzato i servizi segreti? Se lo hanno ammazzato i servizi segreti egiziani, come la mettiamo? Scusami, io, questo fatto, prima di tutto, i servizi segreti egiziani sono un'entità che su cui non c'è nessuna informazione, non sappiamo assolutamente niente. Questa è una mera speculazione. Forse è stato ucciso da un amante, è stato ucciso da chissà chi, è stato ucciso da un poeta che voleva dedicarsi a fare un'affermazione letteraria. Un poeta. Queste speculazioni tu le puoi fare, sì, io le potrei fare, ma il governo italiano non le può fare. Deve amministrativamente, a livello consolare, senza fare sapere nulla, sì, dire senza che farsi informare senza dire una parola in pubblico che può essere girata come una critica contro il governo egiziano. Senti, ma lui come lo giudichi? Un imprudente, questo ragazzo, un imprudente? No, io non lo giudico affatto perché non ero nelle sue scarpe, non ero con lui. Sì, ma uno che va in Egitto e scrive delle cose contro il governo, si può aspettare qualche cosa o no? Ma guarda, io non so i dettagli della cosa, ma apparentemente scriveva in maniera anonima. Vabbè, poi lì sanno tutto. Diciamo che un italiano che ha diritto di espressione può anche portarsi questo diritto dove va. Dove va? Ho capito, bene, ma sei... Però non andiamo a picconare. Ho capito bene. Ma lo Stato deve chiedere però chiarimenti. Una diga che fa l'Italia è un disastro, mega disastro. Ho capito. Senti, professore, ti voglio chiedere una cosa, ma lo stai vedendo il Festival di Sanremo? Ma no, figurati. No, purtroppo no, però devo dire che tanto di cappello a chi? A tutta la stampa italiana che dà tanto spazio al Festival di Sanremo mentre l'economia italiana è in corso di disintegrazione a livello finanziario. Quindi non so cos'è, lo fanno sicuramente per mantenere morale, spero che non lo fanno in ignoranza di quello che sta succedendo. La mancata riforma, il fatto che nonostante la buona volontà, il governo Renzi è fallito a fare le riforme necessarie. Sì, ha fallito. Buona volontà, ma non ce l'hanno fatta a fare le riforme necessarie per avere una crescita italiana. È fallito, ha fallito. Che è più che la crescita del debito pubblico. Senti, se non riesci a crescere più della crescita del tuo debito pubblico causato dagli interessi, se non ce la fai, tu stai affondando. Se stai annegando e non prendi le misure d'emergenza, allora le conseguenze sono inevitabili. Ma è che quando un paese come l'Italia non cresce, non cresce, il suo debito però cresce ogni giorno e ogni notte. Perché questo debito ha un non c'è dubbio. Interesse. Professore, senti una cosa. Intanto ci si occupa delle coppie gay, dell'adozione delle coppie gay. Tu sei favorevole o contrario all'adozione da parte dei gay? All'adozione? No, guarda, io non ci ho neanche pensato. Io sono ancora rimasto indietro col divorzio gay. Perché il matrimonio gay è anche una... Non ho neanche capito. Io pensavo che prima di autorizzare il matrimonio dovevano autorizzare il divorzio, perché sennò siamo nei guai. Capisci? Come avere una casa dove puoi entrare e non puoi uscire. Quindi spero che hanno organizzato il divorzio. Sì, in qualche modo si può uscire. Si può uscire, sì. Sì, pare, si possa uscire. Bene, sì. Allora, esatto. Allora va bene. Allora, la questione di adozioni, sì. L'alternativa è, un'alternativa è che c'è un orfano, in qualche orfanotrofio miserabile, abbandonato. Meglio i gay, meglio i gay dell'orfanotrofio. Miserabile. E l'altro è che questo orfano è portato in posti migliori, ma c'è il problema, naturalmente, che le coppie gay, perlomeno maschili, sì, suppositamente, e io non sono un esperto, dicono la gente, non sono stabili. Non come sono le coppie stabili. Non gay, eterosessuali, sono loro stesse altamente instabili oggi. Appunto. Con molti divorzi, il problema dell'adozione diventa severo, perché il bambino viene tolto da un infanzofio, mandato a una coppia. Questa coppia voleva il bambino, ma il giorno dopo si litigano per il colore del gelato, non so cosa, e poi lo lasciano per strada. Quindi lo so. Bisogna stare attenti con queste cose. Però non, io personalmente non me ne occupo, mi occupo solo da un fatto, che vedo che l'Italia non riesce a crescere. Lo so, quello perché è un casino. Neanche la riforma della giustizia civile è stata fatta. E quello è un casino. Ancora ci sono i furbetti. Grande ostacolo all'investimento in Italia. Ancora ci sono i furbetti del professore, ancora ci stanno i furbetti del cartellino, quelli che timbrano e poi non vanno a lavorare, timbrano e non vanno a lavorare in Italia. Arrivederci professore, arrivederci. Finiamo con che cosa? Finiamo niente. Dai, no, Annalisa Milano, dai, Annalisa la voglio. Che è tardi. No, Annalisa, fammi sentire Annalisa, dai, forza. Pronto, buonasera. Dimmi Annalia, dimmi. Ah, una considerazione molto veloce su quello sull'utero in affitto, la donazione degli ovuli piuttosto che dello sperma. La mia considerazione è questa. Donare lo sperma non è qualcosa che mette in pericolo la salute del donatore. Invece donare gli ovuli o comunque... Vabbè, troppo tecnica sta cosa. Dai, tu dici donare gli ovuli è più pericoloso. ...del proprio utero. Sono procedure che possono comportare un rischio per la salute della donna. Su questo tecnicamente è facile da capire. Ma perché, perché tu stai parlando in viva voce, amica mia? Perché? Non sono in viva voce, sono al mio cellulare. Forse sono in un ambiente in cui c'è un certo rimbombo. Di conseguenza, il discorso dell'utero va più che altro equiparato alla donazione di un organo da vivente, il rene, che la mamma dona. Ma non è così, dai, non è così. Ragazzi, ci sentiamo domani, 18:30, ciao. Cruciani, ma va suca! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.